Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Radio 24, sono Matteo Caccia, questo è il meglio di voi siete qui. È il 19 di luglio del 2012 e oggi ho proprio voglia di raccontarvi e di riproporvi la storia che è arrivata in realtà l'autunno scorso, e voglio però introdurvela non con le mie parole, ma con le parole dell'autrice, Aria. Aria è una signora che ci ha raccontato questa storia, che è ambientata anni e anni fa, però in questo periodo, in un caldissimo mese di luglio, lungo un fiume della bassa mantovana, o della bassa bresciana, vabbè, dopo lo scopriamo. Lei però, circa un mese fa, quando eravamo ancora in onda, prima di chiudere, ci mandò una mail dicendoci: volevo ringraziarvi e volevo leggervi, scrivervi il retroscena di quel racconto, di quello che è successo quando la puntata è andata in onda. La puntata è andata in onda a dicembre e questo è quello che lei ci ha scritto. È la penultima domenica del 2011, mi sveglio serena e leggera. A messa dico una preghiera per Matteo, che domani leggerà a Radio 24 un mio racconto. È un atto di gratitudine. E una per me. Spero che la mia voce sgradevole di professoressa in pensione non appanni la vivacità del colloquio. Ai miei familiari non ho detto niente. Domani avranno la sorpresa di sentire raccontare in radio un avvenimento del loro passato. Un ricordo che ci accomuna, anche ora che hanno la loro vita, la loro famiglia, i loro figli e il loro lavoro. Il cielo è sereno, come il mio animo. Si può fare una passeggiata. Esco portando con me Pongo, 35 cm di pelo arruffato, ringhio sordo e prolungato. Un cagnetto da salotto che non disdegna i sentieri in salita dei dintorni, benché sassosi e trascurati. Pensavo di fare una sorpresa ai miei, e invece la sorpresa viene da quei 35 cm, che travolti dalla gioia di una passeggiata, mi travolgono prima che, una volta scesa dall'auto e iniziata la salita, riesca a liberarlo dal guinzaglio. Mi trovo per terra, tanto dolorante che solo l'aiuto di un premuroso passante mi permette di risalire in macchina. Insomma, questa è la storia che è accaduta, la seconda storia che è accaduta ad Aria poco prima di andare in onda. Lei non lo raccontò e noi non lo facemmo durante la diretta del suo racconto, ma era di fatto a letto dolorante con una specie di gesso. Il racconto però è bellissimo, e soprattutto quella puntata suscitò diverse dinamiche poi incatenate l'una all'altra, a parte alle persone a cui piacque tantissimo questa storia. Ma soprattutto alcune persone riconobbero il co-protagonista di questa storia, cioè il marito di Aria, che era quello grazie a cui nacque tutta la storia. Lo riconobbero come il sindaco del loro paese, e fu un piacere leggere e quindi riproporvi questa storia qua. Alle 9 di mattina di una calda domenica d'estate, la città di Torrazzo è ancora mezza addormentata. Una volta arrivati, ci dirigiamo subito verso la motonautica, dove cominciano le operazioni di alaggio per calare il gommone in acqua. Io seguo con trepidazione, ma non ci metto le mani. Spingerei sicuramente il canotto fuori rotta. È più facile badare alla cesta, piena di panini e di bibite. Una volta scesi sulla pedana di legno, si controlla la miscela e vengono distribuiti gli incarichi e i posti. È importante che ognuno sappia cosa fare e che si sieda in modo da mantenere l'equilibrio del gommone. È per questo che la frase che viene ripetuta più spesso è: bambini, non muovetevi. E poi arriva il momento solenne, quello in cui il papà mette in moto il motore del fuoribordo. Ci vuole sempre un po' di tempo. Per non irritare il manovratore, rimaniamo in religioso silenzio. Ci limitiamo ad un compiacente sorriso di incoraggiamento, che esplode in un evviva quando il motore comincia a cantare come si deve. Con mio marito facevamo molto spesso gite in gommone sul fiume Po, che è bellissimo. Il gommone aveva un motore, non era grande, eravamo papà, mamma e 4 figli. Navigare il fiume è meraviglioso. Siamo vestiti in maniera spartana. Costume, copricostume e ciabatte. Obbligatorio un cappellino in testa. Papà sfoggia una canottiera decisamente troppo vecchia e calzini azzurri stinti. Ora il motore canta senza intoppi. Navighiamo sulle acque un po' torbide, dalle quali qualche pescatore cerca di acchiappare un cavedano o un'arborella. Seguiamo la corrente, passando sotto il ponte dell'autostrada. Il Torrazzo scompare dietro i pioppi. Qualche gabbiano di fiume si alza dalle rive. Vediamo qualche famiglia in gita sulle larghe spiagge sabbiose. Il sole alto di mezzogiorno ci coglie quando non è lontana la cupola di Casalmaggiore. Io ho fame, dice Rosanna. Anch'io, fanno eco gli altri bambini. Il papà decide dunque di accostare il gommone a un pontile solitario.

anni aveva? Preferisco non entrare nei dettagli, ma ne aveva. Va bene, senti, e poi ti saluto. Alla fine poi l'avete mangiato quel gelato in quel ristorante oppure? L'abbiamo mangiato, veramente. Senti Aria, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto. Grazie. Per il tuo racconto innanzitutto e per la tua cordialità per le chiacchiere. Ma voi siete simpaticissimi, siete carissimi, soprattutto Radio 24, che è la mia radio, diciamo, preferita, perché sono sempre sintonizzata su Radio 24. Radio 24, voi siete qui, il meglio di voi siete qui. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare a mandarci le vostre storie. La cosa che mi è capitata durante tutto l'anno, leggendo i racconti che gli ascoltatori e non inviavano, e poi soprattutto raccontandoli in onda, era rendermi conto di quanto le storie, tutte le storie che arrivavano, anche se erano molto lontane dalle mie, in qualche modo in realtà raccontavano un pochettino anche la mia storia. Se non lo facevano, mi sarebbe tanto piaciuto che lo facessero. Ed è proprio il caso di questo racconto che sto per riproporvi, che è nato in onda abbastanza di recente, è nato in onda ad aprile. Si intitolava Il mio primo accappatoio, che in sé non racconta moltissimo. In realtà parla di una vera e propria iniziazione all'amore, forse è eccessivo, però sicuramente un'iniziazione alla sessualità, fatta da parte di una ragazza giovane ma comunque più grande del protagonista di questa storia, che era un ragazzino. Io credo e ricordo anche quando questa puntata è andata in onda, moltissimi uomini hanno scritto, alcuni un po' invidiosi, alcuni non credendo a questa storia. Io, sarà che ho questa perversione per cui mi piace credere quasi a tutte le storie, e mi piace credere quindi che anche questa storia sia vera e che tutto sia accaduto, o perlomeno me lo auguro per lui, ma anche un po' per tutti noi. Il mio primo accappatoio. Non dimenticherò mai quel giorno d'estate. Al mattino ero andato ai grandi magazzini a comprarmi un accappatoio nuovo. Mi serviva per il freddo della sera. Tutte le sere, infatti, andavo a vedere gli allenamenti della squadra di pallanuoto della mia città. Poi, quando i campioni uscivano dall'acqua, noi tifosi ci buttavamo subito dentro, sperando di poter chiacchierare con qualcuno di loro e magari farci insegnare qualcosa. All'epoca a Salerno non c'era una vera e propria piscina e la squadra si allenava in uno specchio di mare antistante la spiaggia dello Scoglio, in fondo al litorale, a ridosso del porto. Braccio fuori, palmo della mano aperto a coppa, presa, scatto di gambe e lancio di spalla. Passaggio o in porta. Riccardo, il più paziente, ce lo gridava tutte le volte. E proprio lui, la sera prima, mi aveva detto: «Nino, comprati un accappatoio, uno di quelli col cappuccio, che qui la sera fa freddo». E allora io, quell'accappatoio, andai a comprarlo. In effetti noi eravamo dei ragazzini e eravamo quasi, come dire, attratti dalla potenza di questi giocatori, che poi uno dei quali ci insegnava qualcosa la sera lì in questa vasca. Successivamente ho giocato nella squadra ragazzi di pallanuoto della Salerno, che era la Salerno Irno, però per poco tempo. «Ciao», mi disse la cassiera, «tu sei Nino, il fratello di Giuseppe. Non ti si vede mai la sera sul lungomare». Mi sembrò di riconoscerla, ma non ricordavo il suo nome. O forse non l'avevo mai saputo. Era un'amica di mio fratello, e io, essendo più piccolo, non potevo neanche avvicinarmi al gruppo di amici di mio fratello. «È che ho altri amici», farfugliai. E improvvisamente mi ricordai il suo nome. Irma. Pagai diventando rosso come un pomodoro sammarzano. «Ciao allora», dissi in fretta. E la sua risposta mi lasciò di sasso. «Domani ho la giornata libera, ti va se ci vediamo? Perché non vieni al porto? Ci vediamo dove ci sono i massi». La salutai e col mio accappatoio sotto braccio scappai via. Quella notte dormii poco, male e molto poco. La mattina dopo, una giornata caldissima e luminosa, io e mio fratello prendemmo come sempre la filovia, ma io scesi prima, scesi alla fermata del porto. Gli dissi che avevo voglia di vedere il rientro dei pescatori. Era il mio primo approccio più o meno, come dire, completo con una ragazza. Questa ragazza ne aveva tre o quattro più di me, quindi fu sicuramente la mia prima esperienza che poi mi fece avvicinare a Pianeta Donne, no? Superai la fabbrica del ghiaccio e il ristorante del golfo. Passai anche oltre il molo e arrivai finalmente ai massi. Mentre saltavo da un masso all'altro la vidi. Era là, stesa al sole. Si alzò e mi salutò. Ciao Nino! Un vuoto. Un vuoto nella pancia che sale fino al cervello. Lo stesso che provavo quando guardavo giù dal terrazzo della scuola. Sentii di nuovo il rosso sammarzano sul mio viso. La salutai e la raggiunsi impacciato, non sapendo bene come comportarmi. Vieni qui, stendiamoci al sole. Mettiamo giù il tuo accappatoio. È più grande e ci stiamo tutte e due. Mi venne in mente per un attimo che si sarebbe sporcato sui massi, forse addirittura rovinato. Lei si girò su di un fianco, sfiorandomi. Mi stava guardando il costume da bagno. Era verde come i colori della squadra di pallanuoto. Nino, caspita, ma quello te l'ha fatto tua madre? Sì, le risposi. Dice che il colore verde mi sta molto bene. Lei rispose dopo un secondo di silenzio. Un attimo di imbarazzo che mi sembrò durare un'eternità. Nino, ma io non intendevo il costume. Più tardi quella sera non passai alla spiaggia a salutare i ragazzi della squadra. Per me non erano gli anni 60, erano i bui e grigi primi anni 90 e cominciavo ad affacciarmi sull'oscuro mondo delle relazioni uomo-donna. Con tutta la goffaggine che si può avere quando si ha tra i 15 e i 16 anni. Anzi, meglio 14 e 15, direi. Si andava a ballare il sabato pomeriggio e si cominciava a parlare di cose misteriosissime e incredibili, come il fatidico primo bacio. Il verbo che si usava, lo sapete meglio di me, era ed è ancora oggi, per l'esattezza, limonare. Qualcosa di affascinante, misterioso e spaventoso al tempo stesso. O almeno per noi maschi. In realtà le ragazze più belle della nostra classe erano ormai lanciatissime in quel mondo. Loro avevano già il ragazzo e molto probabilmente passavano le serate a limonare. La più bella di tutte, Isabella, compiuti 15 anni, spezzò il cuore di tutti noi. Si fidanzò con un ragazzo di 18 anni che l'accompagnava in discoteca. E lo faceva addirittura in macchina. Noi avevamo i pantaloncini corti, gli apparecchi ai denti e i brufoli. Lei, un ragazzo con la macchina, con cui limonava. Una discrepanza assurda. Una distanza siderale tra noi maschi, che al massimo potevamo arricchire le nostre fantasie con i racconti di nostro cugino grande, e loro, le ragazze, che invece erano anni luce avanti a noi. Poi, un giorno, la sorte mi sorrise. Ero in vacanza, come sempre, in quell'epoca, all'Isola d'Elba. E incontrai Veronica. Io avevo 15 anni, lei ne aveva 20. Era bellissima, ovviamente me la ricordo così. Era mora, aveva gli occhi azzurri, le lentiggini sul naso e pure sulle guance. Di quelle che escono solo quando prendi un po' di sole, però. A me Veronica piaceva moltissimo, anche se pensavo che lei manco lo sapesse, visto che passavo praticamente tutte le mie giornate a correre come un pazzo indemoniato sulla spiaggia, dentro e fuori dall'acqua, insieme ai miei amici. Invece una sera, dopo una serata passata in spiaggia, io e Veronica ci siamo scambiati un bacio, anzi, ok, diciamolo pure, io e Veronica abbiamo proprio limonato, è anche abbastanza duro. Fu solo un bacio, veloce e anche abbastanza furtivo, di quelli che senti che il cuore è lì lì per scoppiare e poi ricordi per anni come una delle fasi più importanti e formative della tua vita. Ovviamente poi mi sono bullato con i miei amici per anni facendo il figo a più non posso. Poi però le cose cambiano, gli anni passano e mi sono colpevolmente dimenticato di quel bacio. Poi però ho letto il racconto di Antonio e mi è tornato in mente. E allora l'ho cercata Veronica, ho fatto di tutto, ho scandagliato la rete, i miei amici e alla fine un contatto suo l'ho trovato. E quindi l'ho anche scritto, ero pure un po' emozionato. E le ho chiesto se anche lei ricordava quel nostro bacio sulla spiaggia a Marina di Campo quella notte di tanti anni fa come uno dei momenti più belli della sua giovinezza. E dopo qualche giorno lei mi ha risposto. Ecco, non ve la leggo tutta, ma vi leggo un pezzo della sua mail. Ciao Matteo, che sorpresa dopo tutti questi anni. Come stai? Spero bene, eccetera, eccetera. Dov'è? Eccolo qua. Certo che mi ricordo di quel nostro unico bacio. Non te la prendere, ma non ti stupire che sia rimasto l'unico. Quella sera eri più simile a un comodino che a un essere umano. Eri immobile e a stento riuscivi a guardarmi negli occhi. Avevi le mani sudaticce e quando finalmente hai trovato il coraggio di baciarmi, eri evidentemente troppo agitato. Ricordo che raccontai tutto a Barbara, te la ricordi, quella di Modena? E le dissi che limonare con te era stato come avere un incontro ravvicinato con un mini pimer. Però sei stato tanto tenero quando poi l'anno dopo mi hai mandato quella lettera d'amore. Ciao, Veronica.